parecchio, ho capito. Noi già ho capito. La radio più forte pure tutto. Tutto l'altro pianeta, tu in questa. Ma non c'è nessun altro qua. Sono tutti a cenare, capito? Tutti a fare carica batterie. Devono mangiare piano, che la notte si va a letto leggeri. Infatti, bisogna mangiare leggeri, se no è un casino. Se la pancia come il coccodrillo. Capagava. Allora, io stavo guardando, quei connettori praticamente sono uguali a quello che c'è già nella macchina montato. Però devo controllare sullo schema se il positivo e il negativo è uguale a quello, capito? Perché altrimenti c'è il rischio che si brucia. Certo. Ma per saperne di più basta aprire il coperchio e vedi dov'è la fase neutro. E da lì poi non ti sbagli più. Ma tu quando apri il coperchio, che io l'ho già aperto, sono nel circuito stampato, devi aprirle tutte e due i coperchi. Ma non c'è problema. C'è lo schema elettrico perché il positivo è 1 e il negativo dovrebbe essere 2. Poi c'è 1, 2, 2, 4, 6, che sono le colonnine, capito? E domani mattina, guarda, sollevo la rete, perché è un po' pesante, e così guardo gli altri, se ce li ho, te le do direttamente. Capito, perché sono quelli autoparlanti, praticamente, delle 4 colonnine, che sono 2, 4, 6, 8, no, aspetta, forse sono di più, 2, 4, 8, sì, 2, 4, 6, 8, poi c'è l'alimentazione, che è 1, 2, e poi c'è l'antenna elettrica, che ce la vuoi mettere, e poi basta, non ce ne sono altri, è il filo di massa, basta, e dovrebbe essere a posto. Sì, perché sono 2 autoparlanti davanti, destra e sinistro, e 2 autoparlanti dietro, destra e sinistro, sono 4 autoparlanti, e sono 8 fili, giusto? 8 fili, di cui sono 4 rossi e 4 neri, capito? Perché se tu la inverti la colonnina automaticamente, invece di sparare verso su, ti spara verso giù, capito? La membrana mi sto parlando. Però per provare le colonnine basta una batteria 9 volts. E così sai qual è il positivo e il negativo, ma di solito c'è sempre scritto, quindi no. Non ci dovrebbero essere di questi problemi, capito tu? Capo. Antu, hai ripreso? Aspetta, non mangiare il bambino. Ok, ma non mangiare tu però, la campagna obiettivo di Vicrici. Ah no, sei tutti a dieta, tutti a dieta, tutti a dieta. Ah, io sono leggero, guarda. Leggero, più leggero così, boh, basta. Oh, non è più che devo andare a dieta proprio di brutto, ma io se devo fare un po' di biso, grazie. E mangiare il caldo viene. Il fatto che ti piace mangiare. Ma lo sai qual è il problema, Tony? Non è mangiare, questo e quest'altro. E poi la pancia cresce, a buttarla giù, è un casino. Poco movimento, devo camminare a piedi per dimagrire la pancia. E come fai a camminare a piedi? Specialmente in periodo che è freddo, ma no, pacare, dai, lascia perdere. Perché io devo camminare per andare bene, mezz'ora la mattina, mezz'ora la sera. Tu ti devi prendere una cicletta, mettetela lì e praticamente fai allenamento sia mattina che di sera, capito? E vedi la pancia che te ne scende, tutto lì. Ma se lo vedi lungo, no, che fra, hai visto che è tutto pieno la casa, è piccolina sta casa. L'ho vista, vabbè tu, io sapevo. Quella è, e ti devi adeguare a quello che hai. Poi ho costruito anche io dei mobiletti e là ho gabbato ancora di più. Vabbè, dove te la mettevi le cose, scusa? Il mobiletto ci vuole. È un casino. Giulia, per carità. E questa è portantina. Questo ci sta eliminando il QRM, là, che ce n'è poco. Portantina è Santiago 3 e mezzo qua sta arrivando, capito. Le pio proprio. A noi non ci disturba, assolutamente. Vabbè, io sto uscendo con massa potenza adesso, faccio aumentare, ma lascio così. Per me può venire anche sotto casa pure abbattante, però deve stare attento, che se su io li mangio edola, la macchina non te ne buro. E poi, se poi io proprio non sento niente, ti telefono e faccio prima. Ma. Infatti, dai. Non ne ho voglia di pagare bollette alte io, Tony, capito? Non ne vale la pena, per certe persone, per carità, non mi do niente. lui lascia perdere, che a me se arriva a fare scala portatevi, spiego baracchino di telefono e mi faccio un questo tranquillo. Lette alte, oh io non sono più attaccato nulla, io quelle cose non mi interessa, chi mi sente e chi non mi sente va bene lo stesso, non me ne frega niente, tutto lì. E allora dai. Vabbè. E domani è martedì, giusto? Sì. Oddio. Che si chiama martedì? Cazzo, lunedì è avurato, domenica è lunedì. Voilà, ti sto dicendo che stanno passando i giorni, è una cosa incredibile. Passa la settimana neanche te ne accorgi. Ti trovi direttamente in venerdì. Sabato e domenica, di nuovo sabato e domenica. Se me il giorno mi vola, io dico ma se mi di notte se mi noti, già mi dico cucca, sempre di notte, ma il giorno mi è volato, non lo so perché. Ma l'inverno è così anche perché fa buio presto, quindi c'è freddo e diciamo te restai un po' a casa riservato, perché sennò è un casino. Oggi io, qua stamattina sono andato a fare queste cose, revisione della macchina, poi sono passato un attimo a mia sorella. E poi me ne sono andato a casa, ho fatto cucinato qualcosa al volo e poi mi ho sistemato la lavatrice, la roba, l'ho pulito tutto e poi me ne sono andato a letto a fare un pisolino. Va bene, no io proprio sono riuscito a pigliare qualche medicina. Però, ripeto, no, dice non le stanno facendo, beh, hanno provato a cagliare, a guardare, nulla. Vorrei dare un'altra, però no, fa schifo, non mi piace. Mi hanno detto che ha sapore brutto. Quella che prendo io, praticamente, ha sapore di buon formato, così buono. Allora, vuol dire quando le finisco, se non le trovo, mi metto due o tre cuscini per il reflusso, faccio prima. Stavo dicendo, Tony, ma le medicine sono particolari quelle lì? No, sono per il reflusso, ho capito. È una protezione dello stomaco. Io prendo Gadral. Nel pacco ce ne sono, non mi ricordo, sono 50. Mi è rimasto un pacco solo, ho la ricetta, ma non riesco a farle. Ma stavo dicendo, sono delle pastiglie per l'acidità di stomaco, così è? No, no, no, no, è un liquido. È un liquido che tu te lo bevi, ti fa la protezione di tutto il canale fino allo stomaco. Cioè, praticamente il reflusso è questo, la notte, secondo cosa mangi o cose, se è cucino basso, ti sale l'acidità, ti si gonfia l'ugola e ciao, buonanotte, andare a ripiegare. Perché sembra che c'hai un balluccio e ti fa affogare, capito? È un casino. Io la mi sono spaventato, adesso lo so già. In tutto mi è venuto due o tre volte, non di più in vita mia. Adesso è anni che non mi viene più, sono più tranquillo. Però con questo cadrale è perfetto. La notte prima di dormire me lo prendo proprio. Capo, mia sorella lo prende quello lì, Tony, perché c'ha quel problema, lo sai. E io per niente viene pure il mio nipote ce l'ha. Niente, oppure dormi con due o tre cuscini, c'è la testa alta e sei tranquillo, allora non si sale. È pericoloso, guarda. Vabbè, quando ti sale, diciamo, pericoloso, ti spaventi ed è peggio, tutto lì. A me è la prima volta. E io mi sto spaventando, non riesco a respirare, più andavo a respirare più mi si chiedeva l'ugola, un casino. E niente, no, c'è l'ugola alla gola. Io sono uscito d'inverno e mutande vura e a petto nudo, agito, allora Marco se mi sbaglieggio ma ci appare subito. Se poi infatti a lavoro non c'era neanche andato, ho chiamato, sono andato a studiare subito. Mi è entrata la sonda in naso, mi ha detto controllato, mi ha dato questo cadavere che è buonissimo, grazie a Dio non è più venuto poi. E beh, c'è la cosa giusta e va bene così. Vai a tu, riprendi. Capo, è un gatto protettore, prendi. Cappa. Lì si è calmato Gabriele, per la rabbia. Diciamo a fame, pulito. E allora dici, babbo, mangia bene, a me non mi la cazzo da mangiare. Beh, cambi orari, c'ha. Dunque la portantina era in macchina perché si vede il segnale aumentava o diminuiva, aumentava o diminuiva. E c'era il suo gurrodone. Ma tu pochi watt stai usando, Tony? Pochi, pochi ne ho. Io sto usando qua 4 watt mi sembra. Aspetta, dimmi un po' cosa succede. Aumenta qualcosa? Sì. Ma è il suo saturo di radio però. Come così? Non è sosatolo? Non ti sei sosatolo. Appena tu mi ma neanche si sente, dai. E come è aumentato tu? Così? Così vai meglio. Più o meno, aumenta, sì. C'è 9.30 e passa, no? Non ce n'è Smith. E vabbè, ma scaldo anche di meno, dai, meglio così, al minimo. Qua io sto uscendo con 5 watt. 5 watt modulati, Tony. Sta uscendo bene. No, riprendo che ci sentiamo a tu, dai. Oh, c'è bisogno di burimba. Adesso quanto sono da te? Guarda questo passaggio. 1, 2, 3. Aspetta che mi sono messo gli occhiali. Sì, adesso si rompe. No, di più. E sta vicino Franco, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fanno scala, cos'è che controllo ti devo dare? Boh. Vedi che funziona l'antenna di gomma, cosa no? Vedi, non vedi gente dice che l'antenna di gomma non funziona, vedi che funziona. Io metto l'antenna di plastica, faccio prima. L'antenna che non serve a nulla, chi sta dormendo. Come si chiamava l'antenna nostra? Io non ricordo più. La Venom. La Venom? Cava di positivo. È un'antenna usci e usci mega. Andava ecco c'è poco. Però schifo l'antenna, mica è fea mi antenna. E però c'è il radiale belli grossi, piccoli ma resistenti. E se si fa una curraccia, Oh, non ce l'ha fatta gli altri quelli. Cosa sono? 30 cm. Ma vedo robuste però me. Forse qualcosa in più. Però diciamo che sono. È costruita bene come antenna comunque, dai. A me da quando l'ho piazzata non mi ha dato mai problemi con l'antenna. E ti posso dire che non c'ho neanche stazionarie, nulla. Ma neanche io fra. 1 e 1 e buco. Vento forte, si è pigiata, però sempre chi vero se manco una vita. Allora tu considerare che io sono zona alta, che è più alta della tua, la mia zona già l'hai vista. Quella buriana di vento che c'è stata non gli ha fatto niente. Tu ci sei più alto di me. Io sono aperta campagna mia, e non che quando tira vento, a me mi sta pulsando scatto a scatoloni, che sono sotto la veranda, di un casino e dico, domani metto a posto. Nella lampada vizia al bosso, il castelletto che c'era in plastica, barate verdice, bombolette, un casino, dai. Perché qua non lo prende il vento, nella zona mia quando soffia, specialmente quando entra il corso, vento da nord-est, da levante, lo prende in pieno qua. E io ripeto, c'ho il canale proprio, e chi entrombe, gli alberi non sono, la terra è più alta dell'albero, quindi non lo ripara. Aspetta, mi è arrivato un messaggio, dice, mi dica, ripeti Antonio. E Antonio addirittura la volevo ancora sollevare di un altro 2 metri, ma va bene così. Antenna tu da quando l'ho presa, si può dire me l'hanno regalata, perché me l'ho pagata 30 euro con filo e tutto, capito, quell'antenna lì. Ed era ancora dentro la scatola. Me l'ha data una persona e mi ha detto provala che è una buona antenna. L'ho piazzata e va benissimo. Non mi ha dato mai problemi da quando c'ero un paio di mesi, diciamo. Forse un annetto. E va benissimo. Sì, lo so quando te l'hanno data e chi te l'ha data. Io ho fatto arrivare da fuori 60 euro invece, compreso spedizione e tutto, Amazon. Ah giusto, eravamo a Sieve quando me l'ha data, sì che ci aveva dato anche il filo, ti ricordo. Ci aveva dato 100 metri di cavo e l'antenna. E io invece ho fatto arrivare da fuori, e vabbè 60 euro, comunque se le vale tutte dai, esce bene, ricevi bene. Se mi chiedo, almeno non lo copiavo mai. Volutore se pio, adesso, grazie a Dio, uccide quando trasmette Santiago Nopoli. Alghero Santiago 4, Santiago Alghero per me era 0. Ma per dire, vedi che non vuol dire, Tony, avere antenne che costano un casino di soldi quando questa fa lo stesso lavoro delle altre, a meno che non ti metti un altro tipo di antenna, con diverse bande, ma questa per la, diciamo, per questa frequenza qua va più che bene per gli 11 metri, cioè non ce n'è. La buonanotte va, mi sono mandato in cosa, Doni? La buonanotte adesso mi stanno mandando, Cominci, buongiorno, a chi? Ah, è sempre in forma, si intende, già sicuramente si entra a vedere, non ci ho fatto più vedere. L'ultima volta che la giubito la dico tu ci ha fatto a capo, pensa a dubbio, e non sappia carina. Tanto da sarete la dico tu ci ha fatto a capo, ma cosa è qui? Di cui non la potrebbe dare a balle, l'hai appoggiato. Tu dici, l'ha pigliato per i sushi, Già ne ha preso anche lui, dai. come ti dà pigliato il burro a Sabassone. Lo conosco a Mario, credo, è un bel... Hai avuto fuori a farsi, ma non so se lo fa ancora, penso di sì. No, non so se c'è sempre. È mio cugino, sono da molto che non lo vedo io. Sì, faceva buttare fuori lì. Fratello pure Giovanni, conosco la Ziminea, che lavorava con me più santo. Giovanni, dopo c'era quello di bancare, Antonio, non so se lo conosci. No, no, conosco la Giovanni e Mario. C'era Giovanni, Mario e Antonio. Antonio è di bancari, ma adesso è già grande di età. Sono convinto che non ci sia più neanche lì. Vabbè, io ripeto, sono anni che non ci vado lì, Comunque c'è un bel fisico Mario, eh. Beh, si tiene in forma. Cammina a piedi, fa carta a pesi, fa di tutto, fa palestra. Per la verità che c'ha, va troppo bene. Se mi posso anche la fotocopia così mi dà me le baci. È conosciuto. No, ma lui in gamba è bravo, Anche Giovanni ha preso le mani, ve l'ho detto. No, Mario è in gamba vero, Mario è tolto, è una persona in gamba. L'importante è che non se veda, è una persona tranquilla, ma se rimetti di me diventa una belva. Ma tu ti sei messo California anche per il fatto di Mario California? Capo di positivo. Ma si è immaginato. È mio cugino. Infatti assomiglia un po'. È mio cugino, infatti quando ci troviamo, io a berci il caffè sempre, la verità. Adesso sono da molto che non lo vedo. Infatti io quando vado lì non pago mai nulla, se voglio entrare entro tranquillo, bevo, non pago, capito? Lì al passo vado. Ma non ci vado perché è un troiaio, la verità, Tony. Io sono andato, me ne sono fuggito, non mi piace. Sono sempre tardone che si vede, da dietro sembrava una bella, si gira il passo, mamma mia, fuggi. No, no, no. Ha detto cose che mi vuole, allucinanti, quando usci, madonna, cazzo, lui. E una volta sono andato da Ivia, perché c'era il bagno occupato, sono andato dietro e mi era chi staccato tutta la vincia, baccali dai. E tu sei un bacino. Te le mangi? Da un bacino ne esce la dentina. E chi te l'ha detto? Ma dov'è? Anche la zicchetta non riesce a ciapparla di passì. Pazza tu, ci la vedi da sultavi. E poi le vedi lì cimata collante, con tutte le forme, e poi la vedi in faccia da su, che è un incubo. Ah tu, una voce era passo per la matessi e girando mi sono soffermato per la bibita che mi sono su per frutta io e me la chiaveccia mi vede pure le frate le tira dentro la tasca, no, le frate le tira dentro la tasca, che magogna. Cazzo Tony, una volta andiamo lì a Coso quando stavo lavorando con Zanussi lì a Portocervo al pomodoro. Siamo usciti a mangiare, tutto canto, e vera che tu la moglie. E la mangia la facciamo tra i camarieri e ci hanno pigliato due bizzi, una lui e una lei. E il gruppo di padre abbiamo preso carne di cavallo e coso, come si chiama, e pennetta l'arrabbiata. Tutto un tratto si gira Luigi e si vede chi sto cazzo, ma niente la pizza, di bocca a fuoco, la dentiera in terra cazzo, piglia Luigi e esce sotto la banca, no, in 10 minuti, e tutto la padre e si da sotto la Taurino. Oh, io conosco un amico che è in pensione, era frontumato, antidroga, ma chiedi su un panino in piazza Tola, ma io ero ragazzo. Ma a cui tu mostro panino e ti passa il pezzo di ha attaccato un panino. Che schifo. L'ha giudito, oh lui, cos'è? Ma cos'è questa cosa che ci sente? Aspetta dai, chissà cosa vai sotto la vita. E non sei sapore, come ti muovi da vai? La cultura va a e ci è uscita dal calcio con gli altri, ci è uscita dove c'era il tavolino delle posate, sotto lì il calcio, giudito. E un'altra volta sempre questo qua siamo andati, faccio la magnata, sempre questo Traligos, conosciutissimo la Sascia, il pizzetto. Comunque, e lui ha voluto, il brodino ha voluto, ha telefonato, la dentina ne ha rubiato il brodino, se l'ha sciocchettato e se l'ha rimesso, che schifo. Allucinante, raga. Pure combinato. E poi va fatto una cosa c'è cioè per marito di Oristano e sono trovati al bar, no? Ed eravamo di venerdì qui a Portocervo. Beh, io andiamo a perci una cosa, intanto stavamo rientrando. E come sta a fare tu io così capitan patto, io ti faglia pace perché tu sei pribiana indica. Alla fine si sono tutti e tre imbriagati. Beh, stavamo come ti fermo, rientriamo a Sassa, no. adesso dormiamo qua, qua, in la macchina, in la cultura. No, io ho lavorato circa 10 giorni lì a Portocervo, proprio di fronte al tennis club. E ho fatto 110 metri quadri di moquette, ho fatto un sapolo soffitto, poi gli ho costruito una doccia perché non c'era, erano tre sottopiano, piano terra e primo piano. E infatti io sono poetano, Walter, e ho detto, sì, ma la mia commessa come fa, come lo stiamo facendo, come fa poi a farsi la doccia? Ci sono tre gabinetti ma non c'è neanche la doccia, ci siamo a farla, certo non c'è problema. Mi ha smetto, ho sollevato io tutto un fatto. Quanto mi prendi? 600 euro, dai, per te. Fammelo subito, grazie, troppo dopo, guarda. Tu pensi che dopo un mese sono andato a trovarlo, mi ha messo la mano in tasca, ci metto 100 euro. Perché mi ha messo 100 euro? E beh, questo motto benzina da mia trovata, io non ho fatto le usure, non ci ho mai visto qua. Io ci ho guadagnato più di 2000 euro quello lì. È stato veramente bene. E lui ha detto, ma questa moquette penso sono 4 metri, per ogni rotolo deve per 10 metri, pesava. Lo prendi un paio di ragazzi e le pago io, non c'è problema. Ha giubilato, mi figliuolo, era amico mio figlio. A dormire lo prendevamo dentro le gocce perché portava un bel di nanda e una bella tozzolone di nanda in occhi, uia. E mangiavamo fuori tennis club. Comunque io sono stato bene veramente, d'estate un caglio, pure c'era sempre festa lì, fuoco artificio, spuntini, champagne, cos'è che non fazia? Un casino. E poi c'era Marzotto, c'era Chico Dipo, che era il compagno, grazie Maria Birocchio, il Timotte Andrizia, Salacci, tutta la mamma che voleva un pelo, un elicottero da un pelo all'altro, per carità, messo male, tutto smottonato. Ma che non ti ripiega, è da Portocervo, vai vai, è da un pedicolo, è da Pavia di Napoli. Poi è passata una coppia, una famiglia di napoletani, poi che a cacchio di cane, vestiti di male, parlando, allora faccio vedere che era Portocervo. Pedicolica, vai, intanto avranno i bus pennati, chi perché che non bella roba. Ma vedi che era Portocervo, io la verità non avrei mandato, se andato per lavorare sono stato bene lo stesso, però a mangiare andavo fuori che troppo si spenderà. E poi quando ho finito di voce hanno fatto la festa, di tutto vero la tua magna, di tutto. Mi hanno fatto anche l'applauso, tutto questo lavoro è da signor Antonio. E cosa ti voglio dire? Dirò, ho un negozio di intimo. E mi ha detto poi Walter, dice, ma perché? Perché l'altro signore mi copre un completo? Ho detto, scusa Walter, io non ci sono giocato, io vengo qua a lavorare per poi soldini e tu me ne puoi pigliare con un completino da 400 euro, ma se mi vuoi prendere un mutatino di seno, io fai da bravo. E allora, Franco, e allora che fine hai fatto? Sto prendendo il caffè. No, io non mi alzo più, cioè mi alzo. Sono qua vestito, sono tutto qua, adesso mi attacco il condizionatore perché c'è un po' di freschetto. No, io sono al caldo qua, capito? Adesso mi ho preso il caffè, fumo la sigaretta. Perché prendo il telecomando che accendo? Il grande fratello, cioè, ma a me non me la putti nuda, mi guardo qualche film. Sembrava la stessa cosa il tuo grande fratello, che è una cosa stufa adesso, beh. È un troiaio questo programma. E su, beh. Io ho guardato soltanto il grande fratello, il primo e il secondo, e poi boom, non è più visto. A chi era Matteo cagata, e poi VIP, cosa VIP? E piglia gente normale, ora ti posso guardare. Gente trovata in strada così a caso e pigliava, gli fai guadagnare qualche cosa, invece c'è sempre gente VIP. Poi che c'è un signorino Froscioga, che ha scritto su Facebook, ma invece mette il signorino che è Firocchio, perché lo mettete una persona come Sieve, almeno c'è gente che guarda molto di più che nel fratello. Oh, ma ne è bloccato un mese Facebook, abbi la luce. Ma poi, diciamo, è sempre la stessa cosa, capito? Non cambia, sempre uguale. Signorini, presenta, chi tu rax, chi da cocca con Dio, chi ti dà, se è nata con l'acqua, per carità. È un troiaio quel programma. Non ho capito come mai non è ancora finito io. Va bene, dura di un mese. Chi c'è Maraddo, a culo. Ma l'ha sempre detto a Pieruga e Finocchio, ma io sono stato perché da Finocchio è la verità. E io sono zicchia, e mi hanno bloccato, era Bigliarussi. Dopo che mi hanno sbloccato per un mese, sono entrato su Facebook, tu mi vuoi bloccare, canto di Mare di Biazzi, però a bocca non me ne avrò che mai. Non lo so. E lo sanno tutti che è finocchio, l'ho anche ammesso lui. A lui gli piace, capito? Gli piacciono le banane, gli piacciono. L'ha detto che... Ih, che carino che c'era, dita chi tu la fratina. Che non si danno in Africa, roba, ne so tanto ne vuoi. Però niente, ex banane. E allora, aspetta un attimo. Eia. E io comunque la sera metto il canale 20, mi guardo quei film belli, poi sono belli veramente. Poi se voglio ridere un po' di più vecchi, il canale 34. E c'ho quell'illino Baffi, la Toro Vitale, ogni tanto gli altri. Poi quando vuoi vedere i ciccioli, canale 31 a real time. E chi deve dimagrire, lo dottore in Texas, giusto? E chi tu mangia più di prima? Poi no, io ho fatto la dieta, sì, ma a bilancio lo ammettono. In fresco di magrire si aumenta 2 kg, e pesa 250 kg, 300 kg, e mi guardo quei fili in prima visione. Canale 20 sono un bel film lo stesso, 22, a volte quei film fa questo, già sono belli lo stesso. Ogni tanto cambiano, e ogni tanto le danno anche quelli. Sempre canale 34 le danno, sono film vecchi, capito? Ma non può piacere anche vederli. O Alvaro Vitale, Edwin Peric, Leo Manfi, Leo Manfi mi fa specializzare a me, e cappa. Aspetta che metto le cuffie, le metto. Allora, se comincio a sentire un po' di caldo, adesso comincio a scaldarmi, qui da terra. Quando sono minori, sono curiosi, dopo poco sono mi si mica. Oi, oi, oi. Franco, finito hai, dimmi il suo caffè. Io due l'ho già avuto, ma c'è femmina, grazie a Dio. Ha già fatto anni. Ma quando era minore così curioso, che ha troppo d'occhio. Poi quando sono manni, oh, ma che ti cagano in più. Adesso mio figlio ha fatto 44 anni, ma... io ho 69 anni, mi ha trovato un bicilitro. Sono già 2 anni in pensione io. Mio figlio l'ha tre tutto. E a me mio figlio mi dice, beh, vai, vecchio. quando diventare nano e voi, vabbè, comunque. Sono soddisfatto perché gli ho dato una bella educazione, grazie a Dio. Non fumano, non miseri, sono tranquilli, sempre travaglienti, grazie a Dio. Però non abito a Sassari. Vive con la compagna a Posada, provincia di Nuoro. Lavora a Ubbia, Nuoro. Vabbè. E ci sentiamo ogni giorno, viene 2 volte al mese a trovarci. Vabbè. L'ha detto, me quando non ce la fa più tuo padre, dimmi tutto il chiaro che faccio. E mi ha detto, e non sei macro. E cosa mi assomiglia? Un tir. E va c'è roba sigillata ancora tu. Tu pensa che c'ho una pulivapora nuova mai usata. Poi c'è una sega circolare mai usata, ancora scatolata. Poi ho del cespugliatore, l'ho aperta proprio per piazzarmelo e non l'ho mai usato. Non parliamo di altra roba, poi di tutto, c'è di tutto, il cattuccio che è quello gigante, grosso, trapani, cose che fa, molette, dischi, dischetti, di tutto faccio. Poi non parliamo di confezioni, di coltelli, quelli in ceramica, sempre con parenti, sempre con... L'unica nuova cosa che ha recuperato è con la pistola a caldo, a colla a caldo. E mi stavo... c'ho anche la saldatrice ancora, beta in scatolata, sigillata, nuova ruba, mai usata. C'ho tante quella roba. E tu pensa, mi sono comprato una casetta di quelle verdi belli, con le porte scorribili. Ho fatto un bel basamento in cemento, alto 2 cm, 3 metri per 2, all'ero seduta sopra, più i tiranti, tutta silicolata dai tre fuori, quando piove non con una goccia di acqua a parare. Poi, il mobilistico ho costruito io, perché non manca che la roba che faccio in questa casetta, puro dritto gas al naso, nell'armadio, sotto un rito, un casino. Ha detto basta, il compagno è venuta. E poi chiave fisse, di tutto. Io penso che ho dato un bel po' che mio figlio pistole silicone, di tutto. Di nastri adesivi grossi, ma larghi, ne ho tanti colori. Io compravo sempre, alla fine ho detto basta, non c'è stato niente. Ma non fosse venuta. E niente, ha detto mi sacco anche di piazza, ma a me ne vedo tutti, me ne vedo. Tanto. non so cosa farmene, non lo sto neanche usando. Poi vabbè, ho avuto incidente l'anno scorso, e ho cominciato pizza a 6 dicembre, in fisioterapia. Adesso vediamo un po' la situazione quando si acciara. Secondo cosa mi offre, dico che le caramelle le ho già comprate. Anche io voglio minimo 40-50 mila euro. Eh no, ma è tanto l'avvocato, non c'è problema, perché 5 mesi sono stato lì, non è nulla. Frattura del costo, frattura malleolo, distacco del trapezio alla mano, e io avevo anni a sanarsi. È rimasto il piede un po' gonfio, infatti ho consultato al medico legale, l'ho visitato e l'ho fatto vedere i cessi. Quindi è un danno permanente quello lì. E vabbè, la scuola si sa, tende sempre a tirare. Franco, sei rientrato? Sono al telefono un attimo. Ok, ma io ho una situazione buona, che mi deve pagare l'Allianz, qui in banca. E tu a proposito fai sacca giusta di pagare, cosa? Non si può lasciare. Adesso vicino alla chiesa, visto cosa hanno fatto? Questo scivolo l'hanno un po' accusato. Chi c'è come che è arrivato laggiù questo bagosso? Perché c'è la chiesa, ma c'è la Bielucci. Prima anzi era più brutto, se uno faceva veloce molto cagia, via. Tu invece sei caduto su dove c'è la fine via Solari, giusto? E là hanno grattugiato per terra, hanno lasciato i gradini. E quindi. Ed è ferro burro, poi l'hanno saltato. E domani è già martedì, e domani vi gioco la schedina, dai, supera la rotta, chiudiamo, grazie. Niente, pensiamo sempre 2, 5 euro, 6 euro, blu, che se la Bielucci. Ma la faccio io la schedina, manco un numero mi diavo, nulla, la faccio giocare da loro, e facciamo sempre 2. Ma se fai 5 più 1 sono un bel di nato, un bel, poi se fai 6, non ne va a vedere. Allora sono di là, erano 180 milioni di euro, penso un po', adesso non so se l'hanno fatto o non, penso io, l'avrei saputo, sarà aumentato, è un beacca, ma tanto mi messi 180 milioni di euro, 360 miliardi, che non dipende, è altro che non che in Italia è per carità, se la via luce a 3 anni. Ah, io adesso sono quando mi danno a tu. Me ne vado a Tenerife a vivere là, non basta che faccio le balendiere in occhi. Il governo se le mangia troppo di là, se la via luce è donato lì in Gava, gava, sono rientrato. Io mi seguo con me, mi guardo un po' di TV a tu. Vediamo cosa c'è di bello. Perché sono seduto, oggi quel tacco che ha abusato. Già c'è caldo, ma non voglio dentro il letto, a calduccio. Vabbè, dai, ci sentiamo a tu. Un bacione piccolo. Saluto la 50. Ciao Franco, ci sentiamo domani. Ciao ciao a tutti, buonanotte. Ciao Tori, buonanotte, ce la risente domani. Ciao ciao. Ehi, ciao. Vai a tu, riprimi. Gargavella. Lucariello, cambio pazzo qui. Positivo cavallo di fratelli da via, grazie. Comoli, forte e chiasso. Mi senti, Luca, sì. Tu arrivi, segnale 2, radio incomprensibile, fra. Radio 1, dai. Chiama di positivo, fratello. Col portatile sto uscendo adesso. Assistente, ma cos'è internet? È un portatile di quelli piccoli, 6 canali, dai. Cioè 10 canali dove va. E non si sente perché. E la voglia. Sì, Anto, arrivi benissimo. Arrivi benissimo. Se non ti rispondo subito che sto facendo roba qua. Tutto sotto controllo, frate. K di positivo. Tutto K, capito? Io sono dentro il letto, capito? Oh, va tu bene. Faccio pure di 100 avanti io, alle 8. Fonte, prova a vedere la base, arrivo. E a Puglia. C'è 9.30 qua, tu, va benissimo, una bella modulazione. A te arrivo in quei cipressi, Luca. Sta facendo cosa, Luca? È impegnato, sicuramente sta riparando qualche PC. A tal volo, fra, sì. Ah, va bene, tutti, dai. È vero. Prepotente al massimo. Vedi che non passi con me con Luca. Vabbè. Va a vedere, aiuto. Cosa fai la prova? niente. Ma non so se ci avrei avuto la mano sul petto, però, E vabbè, io sono nell'altra posizione adesso, capitato, quindi non posso dare potenza qua, a parte che c'è un alimentatore basso. Sto facendo con 10 volte modulati. La domanda si scioglie l'antenna. Beh, infatti che esce la radio vanno tutti in antenna, capito? Ciao, un attimo che stavo. Accesso la zuppa. La zuppa stai facendo? No, ho acceso la zuppa. Ah, la zuppa, avevo capito la zuppa io. Vedi che c'è freddo, cazzo. Ma sai cosa vi dico? Che mi c'entro a letto adesso. Ti conviene, guarda, io sono con il cazzo. Via, ciao, dai, vi saluto a tutti, ciao ciao, ciao Luca, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao a tu, buonanotte, buon tutto e ce la riascoltare i prossimi, dai.